Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, nuova puntata insieme. Allora, di cosa parliamo questa mattina? Avete già sentito le anticipazioni nel corso del giornale radio. La chiamano la polizza delle casalinghe, ma il nome preciso di battesimo è assicurazione contro gli infortuni domestici. L'ha introdotta nel nostro ordinamento la legge 493 del 99. Il premio da versare è bassissimo, neanche 13 euro, e molti si chiedono che garanzie possa mai offrire una polizza di questo genere che implica il versamento di una quota così bassa. Eppure il versamento di questo premio è obbligatorio e anche se le coperture potrebbero essere estese e il campo d'azione allargato, questo strumento offre una protezione importante contro gli infortuni che possono capitare in casa se ci si occupa in via esclusiva della gestione delle incombenze domestiche. Quindi parliamo di casalinghe, ma anche di casalinghi. Lo spirito della sua introduzione è stato proprio quello, infatti, di garantire una rete di protezione a chi, volente o nolente, deve occuparsi della casa, della famiglia. Allora, noi stamattina ne parliamo con due persone che sanno molto di questo argomento, ma anche di più. Saluto e ringrazio per essere con noi questa mattina Tina Gallinari Leonzi, presidente del MOICA, il Movimento Italiano Casalinghe. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a chi ascolta. E poi saluto e ringrazio anche Fiorenzo Bresciani, che è invece il presidente e il fondatore di ASUC, che è l'associazione degli uomini casalinghi. Presidente Bresciani, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e buongiorno a Tina. Soprattutto perché, tra l'altro, abbiamo realizzato questa mattina questa carramba involontaria, perché ieri ho chiamato in via separata ovviamente le due persone per chiedere loro se volevano essere ospiti di Salva Danaio quest'oggi, e mi hanno detto che non solo si conoscono molto bene, ma che addirittura la presidente del MOICA Leonzi, Bresciani, è stata la madrina praticamente di battesimo della vostra organizzazione. Sì, stanno un po' intrecciando nelle dichiarazioni, ma entrambi stanno confermando praticamente la circostanza che ho raccontato. Poi mi racconterete come sono andate le cose, ma soprattutto stamattina il nostro obiettivo è spiegare bene come funziona questo strumento di protezione per chi si occupa, come dicevo, in via esclusiva delle incombenze domestiche, del lavoro domestico, volente o nolente. Ho detto prima perché poi, come avremo modo anche di sviluppare nel nostro discorso con Fiorenzo Bresciani, parlando di uomini casalinghi, che a qualcuno può apparire anche un po' pittoresco appunto affrontare questo argomento, perché non viene ancora molto concepito nel nostro sentire comune, ma c'è chi è rimasto magari negli ultimi tempi un po' di più purtroppo a casa dal lavoro perché l'azienda ha chiuso i battenti e magari si trova adesso a dover così soddisfare altro tipo di esigenze familiari, non solo quelle di portare a casa lo stipendio appunto per sfamare la famiglia, ma anche occuparsi di altro. E quindi proprio per questo motivo, magari siccome questa condizione potrebbe ancora andare avanti a lungo, magari insomma, come dire, proteggersi contro gli infortuni potrebbe essere anche una buona idea. Anzi, potrebbe essere, è un'incombenza obbligatoria e adesso ne parleremo. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Raccontateci intanto se non sapete niente di questa polizza, fateci pure le domande che riterete più opportune, oppure qualora qualora stiate versando il premio, da quando è obbligatorio farlo? Vi è capitato anche di dover chiedere la rendita, appunto siete addirittura incappati insomma in un infortunio che vi ha menomato? Adesso io non vorrei dire e utilizzare questa parola che è anche un po' brutta, ma potrebbe anche essere successo a qualcuno. Allora raccontateci se questo strumento ha funzionato o meno, perché anche le criticità vorremmo metterle a confronto con i nostri due interlocutori di questa mattina. Se non ci volete telefonare, ci potete scrivere al 349-238-6666 oppure all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La borsa rapidamente, prima di entrare nel vivo di questa di questo tema di questa mattina. Dopo i cali molto forti di ieri, che si sono concentrati di nuovo sulle borse perché sono ritornati i timori sul Portogallo e i rumors sulle pressioni affinché Lisbona accetti l'aiuto di Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea, questa mattina il governo portoghese ha ancora smentito seccamente di essere in procinto di chiedere questi aiuti, addirittura ha smentito di averne alcuna necessità. E allora stamattina su queste rassicurazioni la borsa rimbalza, ma recupera poco rispetto ai cali di ieri. Parigi più 0,8, Francoforte più 0,57, Londra un po' meglio, più 1,10, Milano più 0,55. Volatoz, in questo momento il titolo delle scarpe di lusso e non solo di Diego Della Valle, sta guadagnando il 4% sulle indicazioni positive delle patrone, appunto Diego Della Valle al Sole 24 Ore. L'imprenditore ha dichiarato che i conti del 2010 della società saranno superiori alle attese, ma anche le performance del 2011 saranno piuttosto buone. Vola la Galassia Fiat per le motivazioni indicate nel giornale radio. studio, Fiat Industrial più 3,58, Exor più 2,90, Fiat SPA, quindi l'auto più 2, dopo le indicazioni di Sergio Marchionne che ha detto siamo saliti al 25% in Chrysler, pronti ad arrivare al 51% entro la fine dell'anno. Altri titoli in rialzo, Azimut più 3,34, Exor più 2,90, Diasorin più 2,86, in discesa dopo il calo già forte di ieri Fondiaria meno 1,46, Generali meno 0,87, Atlantia meno 0,7, Tenaris meno 0,6%. Stamattina lieve rialzo dei tassi all'asta dei bot, titoli annuali offerti dal Tesoro italiano sono stati assegnati ad un rendimento medio del 2,067%, 7 miliardi di titoli offerti con una domanda che è stata superiore agli 11 miliardi, per cui buona accoglienza dal mercato. La Grecia ha venduto sul mercato quasi 2 miliardi di titoli di Stato semestrali a fronte di una domanda molto forte a 3,4 miliardi, quindi anche ampiamente soddisfatta l'asta greca, e queste sono le notizie appunto più importanti della mattinata. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, andiamo alla nostra polizza, la nostra assicurazione contro gli infortuni domestici, la meglio nota polizza delle casalinghe. Entro il 1 febbraio quest'anno va pagata l'assicurazione per casalinghe, la polizza che offre una tutela contro gli infortuni dovuti al lavoro svolto fra le mura domestiche. Ma attenzione, il premio assicurativo da pagare, pari a 12,91 euro, è dovuto se la casalinga non è iscritta ad altre forme di previdenza sociale obbligatoria e se ha un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il premio non deve essere pagato dalla casalinga nel caso in cui il suo reddito nel 2009 non abbia superato i 4.648,11 euro, così come quello del nucleo familiare non deve essere complessivamente superiore ai 9.296,22 euro. In questi casi, infatti, il pagamento è a carico dello Stato. Per quanto riguarda il pagamento, i diretti interessati nei giorni scorsi hanno ricevuto una lettera da parte dell'INAIL con annesso il bollettino di pagamento. Se si preferisce evitare la fila alle poste, il premio INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici si può pagare online, sul sito internet dell'INAIL, con la carta di credito, Visa o Mastercard, o con la carta PostePay, oppure con l'addebito sul conto corrente BancoPosta. 800 24 00 24, numero verde per le domande in diretta, 349 238 6666 è invece il numero per i vostri messaggi, a cui adesso darò lettura perché ne stanno arrivando davvero parecchi. Allora, presidente Gallinari Leonzi, Tina Gallinari Leonzi, presidente del MOICA, Movimento Italiano Casalinghe, ci sono tra le vostre associate, qual è la percezione dell'utilità di questo strumento fra le vostre associate? Perché appunto io dicevo in apertura, dato il premio bassissimo che si deve versare, qualcuno probabilmente si chiede anche insomma quanta copertura mi potrà garantire qualora davvero dovesse capitare un infortunio nell'ambito delle mura domestiche, e quindi insomma sicuramente uno strumento che va migliorato, poi lei ci dirà anche dove, ma in sostanza però viene, come dire, apprezzato questa rete di protezione da parte delle casalinghe? Senta, però credo che una premessa vada fatta. Facciamo la premessa. Ed è quella proprio che è importante questa legge, perché riconosce, è la prima legge che riconosce il lavoro familiare come vero lavoro e come lavoro pericoloso. Quindi bisogna tenere presente questo. La Repubblica per la prima volta riconosce il lavoro familiare e nell'unica legge in cui questo avviene. È importante perché davvero chi purtroppo incorre in drammi drammatici, tragici, eventi con conseguenze permanenti, ha una rendita vitalizia fino alla fine dei suoi giorni. Se la legge non ci fosse stata, l'evento si sarebbe comunque verificato e la persona non avrebbe avuto quel sostegno e quell'aiuto che naturalmente aiuta a vivere in situazioni di difficoltà che vengono poi a conseguire a questi fatti. Quindi tutte le vostre associate versano questo premio, Presidente, o qualche perplessità c'è? Ma guardi, ci sono, noi soprattutto parliamo non solo delle nostre associate, ma anche delle persone che si rivolgono a noi. Certo. Per rispondere, voglio dire, a questa intervista, vede che le ho fatto dare il mio numero privato e nel frattempo ho staccato quello del movimento, perché non avremmo potuto parlare assolutamente, perché le telefonate sono a getto continuo, il telefono è rovente, e c'è chi l'apprezza e c'è chi non l'apprezza. Le motivazioni, voglio dire, ci sono anche per chi esprime le critiche critiche e noi siamo d'accordo su questo, tanto è vero che il nostro impegno è proprio quello di vedere se si possono apportare a questa importante legge quelle modifiche sostanziali che la rendano di fatto una legge che risponde a tutte le evenienze, non solo a quelle con carattere permanente di conseguenza, ma anche alla invalidità temporanea, che è quella che più occorre, voglio dire, alle persone che svolgono lavoro familiare. Anche se poi mi spiegava a microfoni spenti, prima di avviare la trasmissione, presidente Bresciani dell'Associazione degli Uomini Casalinghi, che in realtà questo, anche se è una legge del 99, è un piccolo cantiere sempre aperto, perché proprio di recente vi è stata riconosciuta una percentuale di invalidità esattamente che era al 33%, è scesa al 27%, la novità dell'ultimo anno. Mi spiega esattamente questo passaggio, presidente Leonzi? Prima era il 33%, quando la legge è stata varata dal Parlamento era il 33%. Ai fini del riconoscimento di una rendita permanente o temporanea? Dell'invalidità. E poi siamo passati, siamo riusciti a farla battere al 23%, che però è pur sempre alto, insomma, se lo si paragona a quelle delle altre attività lavorative che sono all'11%, quindi qui c'è molto da fare per ottenere appunto un ulteriore abbattimento del livello di riconoscimento dell'invalidità. Benissimo. Fiorenzo Bresciani, presidente fondatore di ASUC, l'Associazione degli Uomini Casalinghi, e allora io dicevo prima, insomma, è chiaro che nella percezione comune la casalinga è una mansione esclusivamente femminile, ma in realtà invece ci sono molti anche associati alla vostra organizzazione, e sia perché si riconoscono pienamente anche nello spirito della partecipazione della vita domestica, sia perché qualcuno, volente o nolente, solo ed esclusivamente delle incombenze familiari si deve occupare e quindi accetta ben volentieri di essere definito anche come tale casalingo. Presidente Bresciani, ma lei ha anche una storia sua particolare da raccontare. Come mai le è venuto in mente di fondare questa organizzazione? Ma io ho preso in mano la situazione familiare, ritrovandomi a casa dopo tantissime cose, mi ero stufato del mio lavoro che facevo, e rimanendo a casa iniziai, mia moglie quel frattempo era medico come tuttora, ed è faceva, diciamo così, il suo percorso sociale. Insomma, i pantaloni in casa li portava sua moglie. Sto scherzando, sì, naturalmente. Sì. Io vorrei dire un'altra cosa, però sì. Anche prima io ascoltavo lo speaker, quello che mi disturba un po' è che si parla sempre a femminile, ma cerchiamo di inserire anche il maschile in questa cosa. Questa, secondo me, non la ritengo giusta, che sia l'immedia che chiunque possa sempre parlare al femminile. No? Dobbiamo pensare che, insomma, da qualche anno stanno cambiando le cose. Raccogliamo il suo monito, presidente. La prossima volta che ci occuperemo di questo argomento staremo molto attenti anche nell'utilizzo, insomma, della terminologia giusta nella compilazione delle nostre schede. Siamo solo l'1,1%, ma insomma stiamo iniziando, stiamo un po' andando avanti, perciò bisogna prendere in considerazione queste piccole. Sì, esatto, questo è un dato che lei ha citato, peraltro che abbiamo ritrovato anche noi, si riferisce alla realtà del 2009, un piccolo esercito di 22.631 persone, i casalinghi italiani, gli uomini di età compresa fra i 18 e i 65 anni, che nella vita si occupano esclusivamente della cura della famiglia e della casa, e questo risulta proprio dai dati INAIL relativi al numero di polizze contro gli infortuni domestici che sono state sottoscritte presso l'istituto. Ci dobbiamo fermare per un attimo perché abbiamo un po' di pubblicità e poi subito le domande degli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire e continuare a prenotarvi. A tra pochissimo. Salva Danaio. Il casalingo sa. Ci stiamo un po' divertendo in studio, abbiamo trovato ieri questa deliziosa canzone che è stata presentata ad uno Zecchino d'Oro nel 2005, che Fiorenzo Bresciani, presidente dell'Associazione degli Uomini Casalinghi, voi avete subito approfittato per prendere come colonna sonora un po' delle vostre attività, e vi racconta molto bene, peraltro, anche se in maniera molto delicata, come solo una bambina può fare. Sì, devo dire che veramente siamo molto felici di questa cosa. Ci racconta benissimo, perché io credo che l'autore abbiano preso spunto un po' dal nostro sito internet per far creare questa canzone molto bella. Allora, adesso abbiamo ripreso la trasmissione in maniera un po' più leggera, però il tema di cui stiamo parlando è molto importante, perché adesso entro la fine del mese si deve versare il premio per l'assicurazione contro gli infortuni domestici, e siccome devono versare questo premio coloro che si occupano della gestione familiare a tempo pieno, e quindi possono essere sia donne casalinghe che uomini casalinghi, allora stiamo cercando di capire come funziona questo strumento di protezione e che cosa garantisce, soprattutto perché è un'assicurazione che viene gestita dall'INAIL e che paga una rendita vitalizia a chi rimane vittima di un infortunio nello svolgimento dei lavori domestici. Allora, peraltro, oltre a Fiorenzo Bresciani, è con noi stamattina Tina Gallinari Leonzi, presidente del MOICA, Movimento Italiano Casalinghe. Siccome con il presidente Bresciani stavamo dicendo, insomma, ancora si fa un po' di difficoltà a far entrare anche nella percezione comune che anche l'uomo può fare questo lavoro, quindi deve esserci anche un cambiamento culturale che sta andando avanti, ma naturalmente molto lento, io, presidente Bresciani, le dico che le prime due persone interessate all'argomento di cui parliamo questa mattina sono due uomini, e quindi li facciamo intervenire subito. E cominciamo con Sergio da Roma. Sergio, buongiorno. Buongiorno, sono Sergio da Roma. Sì, lo so, l'ho presentato. Volevo fare due domande, una a cui avete parzialmente risposto con la scheda. Innanzitutto, capire bene chi è, come definizione, il casalingo o la casalinga a livello reddituale, e soprattutto anche cosa si incorre in caso di mancato pagamento di tale versamento all'INAIL. Benissimo, grazie. Grazie Sergio. Saverio da Milano, magari ci metto anche la sua domanda così rispondiamo a tutti insieme. Saverio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Gentilmente, io ho mia moglie che è casalinga da quando siamo sposati, ed ha 55 anni. Sì. Volevo chiedere, ma noi, come diceva prima, doveva arrivare qualche lettera o qualcosa dall'INAIL, sì. Solo se si tratta di un rinnovo, però per il primo pagamento, sì, ho capito Saverio la sua domanda. Quindi lei dice, insomma, non abbiamo mai saputo niente, quindi il versamento non è mai stato fatto? No, infatti, mai fatto. Mm-hmm. E allora stamattina chiariamo i dubbi anche delle persone che si trovano in questa condizione. Presidente Leonzi, MOICA, inizio con lei. Il primo ascoltatore, Sergio da Roma, voleva proprio sapere, come dire, dare l'identità precisa alla persona che deve obbligatoriamente versare questo premio. Ma direi che è la legge stessa che lo dice, no? Mm-hmm. Intanto, come lei ha ricordato prima, l'età fra i 18 e i 65 anni, e le persone, vede che io dico le persone, Fiorenzo sarà contento, non le casalinghe, svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, non sono legati da vincoli di subordinazione, prestano lavoro domestico, che a me non piace, mi piace il lavoro familiare, ma la legge dice così, in modo abituale ed esclusivo. Quindi non svolgono altra attività per la quale sussiste un obbligo di iscrizione a un altro ente o un'altra cassa previdenziale. Mm-hmm. Allora, poi adesso mi sfugge un attimo perché non me la sono scritta la seconda domanda di Sergio da Roma, ma andiamo a quella di Saverio che forse si legava, insomma, per chi non facesse questo versamento. Per esempio Saverio, in totale buona fede, lui dice io non lo sapevo, può anche capitare che qualcuno non conosca questo obbligo. Presidente Leonzi, sua moglie però ha 55 anni, sicuramente può mettersi in regola con questo premio, e però il problema è che non gli arriverà niente dall'INAIL, perché la prima iscrizione va fatta direttamente, se non sbaglio. E quindi si va alla posta, a un ufficio postale. L'ufficio postale ha dei moduli precompilati proprio per la prima iscrizione, dove la persona trova tutto, quanto si deve versare, a chi si deve versare. Praticamente deve mettere il suo codice fiscale e l'11, che è l'anno, no? C'è un quadratino e dice cosa si mette in quel quadratino a due caselle, si mette 11, che vuol dire 2011, ecco, e così con questa iscrizione uno si tiene la ricevuta, non riceverà mai dall'INAIL alcun riscontro in termini, qualcuno crede mi arriva la ricevuta, mi arriva il contratto, niente di questo genere, tiene la ricevuta ed è in caso purtroppo di infortunio la prova della sua assicurazione. Allora, tra l'altro adesso è chiaro che l'ascoltatore gli abbiamo dato indicazione di andare direttamente alla posta in modo tale che ritira il bollettino e può fare contestualmente anche il pagamento. Se prima volesse informarsi può andare anche alle sedi dell'INAIL, può collegarsi al sito dell'INAIL, può andare presso le associazioni di categoria, tra cui la vostra, il MOICA, Donne Europee Federcasalinghe e Scale UGL, che è una terza organizzazione appunto rappresentativa di questa, chiamiamola così stamattina, categoria professionale, e quindi insomma questo anche se non si volesse fare subito il passaggio alla posta. Invece per il rinnovo dell'iscrizione in questo caso viene arriva la lettera dell'INA, il presidente Leonzi, no? Con il bollettino già precompilato. Qualche volta succede che non arriva perché magari un disguido postale e noi riceviamo tante telefonate. Che cosa facciamo in questi casi? Noi prima consigliamo di aspettare il più possibile, di arrivare, non so, fino al 15-20 di gennaio, giusto in questi giorni, perché se non è ricevuto entro questo periodo difficilmente arriva, nel senso che l'INAIL sicuramente spedisce ancora a dicembre. Ecco, allora in quel caso, non avendo ricevuto, va alla posta, si fa dare un bollettino. L'INAIL l'anno scorso ha consigliato di adoperare comunque il bollettino prestampato anche se è scritto che è per la prima iscrizione, anche perché probabilmente a volte quando uno poi scrive con calligrafia propria su un modulo normale non sempre si riesce a capire e a leggere attentamente, quindi adoperare pure quello o comunque se non c'è, perché anche quello a volte l'ufficio postale l'ha finito e allora non ce l'ha, è un modulo normale, quello che si adopera per qualsiasi altro destinatario, e si fa il 1291, si mette l'indirizzo che è l'indirizzo INAIL Assicurazioni Infortuni Domestici, Piazzale Giulio Pastore 6 00 144 Roma, e sul retro, perché c'è il posto libero in quel caso, mette il codice fiscale, che è quello importantissimo, e scrive rinnovo 2011. Benissimo. Tra l'altro ricordo anche una terza via per poter adempiere a questo impegno: si può fare anche il pagamento online, per chi ha dimestichezza, per chi ha il canale internet e per chi ha l'home banking, la banca online, può fare il pagamento anche attraverso questo canale di questo premio assicurativo. Lo possono fare anche i titolari di carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o conto BancoPosta anche sul portale www.inail.it. E do una terza via per avere anche tutte le informazioni su questo tema, chiamando il numero verde che ieri, parlando con il presidente dell'INAIL, IMSS, abbiamo stracitato, l'803 164, questo è il numero unico IMSS INAIL, e in questo contact center integrato potrete avere anche tutte le informazioni relativamente all'assicurazione contro gli infortuni domestici. Vorrei ritornare a Fiorenzo Bresciani, presidente dell'ASUC, Associazione degli Uomini Casalinghi, per farci raccontare un po' meglio lo spirito e l'attività appunto di questa organizzazione, un po' il presupposto, lo abbiamo spiegato anche prima, insomma sensibilizzare anche il mondo maschile sul fatto che anche se ci si trova in una fase temporanea di condizioni di dover occuparsi pienamente delle incombenze domestiche, insomma non è niente di scandaloso, anzi qualche volta può risultare anche molto piacevole, e credo che forse questo sia proprio un po' lo spirito che anima tutti i vostri associati, presidente. Come è composta la vostra realtà? La nostra realtà è composta da varie tipologie di persone, purtroppo devo dire ci sono quelle persone che hanno perso il lavoro, ultimamente si trovano un po', diciamo così, obbligati a rimanere a casa e a fare quei lavori domestici. Fortunatamente magari la moglie ha una sua occupazione e perciò loro devono in qualche maniera accudire la famiglia e trovare un piatto di pasta calda quando viene sua signora. E come dicevo prima, sono tantissime le tipologie che si aderiscono alla nostra associazione, e c'è altra tipologia che proprio lo fa per piacere, perché ha visto e ha capito quanto è importante la collaborazione proprio dentro le mura domestiche con il proprio partner. Adesso purtroppo devo dire le esigenze sono cresciute, bisogna lavorare in due e perciò bisogna aiutarci uno con l'altro, allora l'uomo deve prendersi cura anche della famiglia e soprattutto collaborare nel mondo domestico. Certo, famiglia che qualche volta può anche voler significare, presidente Bresciani, doversi prendere cura per esempio di un genitore malato, non è detto che ci si debba ritrovare solo nella condizione di dover aver cura della moglie con i figli, a volte le condizioni possono anche essere differenti, giusto? Giustissimo, tante volte io ho degli associati che si sono presi cura dei suoceri, dei propri genitori, anche perché essendo persona anziana ho bisogno, diciamo così, di una persona che fisicamente sia più forte di una donna, voglio dire, nel tirarlo su a letto, magari nel accudirlo, c'è bisogno di una massa muscolare molto più forte della donna, sicché l'uomo è molto importantissimo sotto questo aspetto. Le faccio sentire cosa ci vuole chiedere Marcello da Roma, che ci prova. Lui vorrebbe fare il casalingo, ma credo che non abbia questa possibilità di poter adottare questa definizione per sé. Marcello, buongiorno. Buongiorno, io lavoro a casa e faccio un lavoro che mi lascia molto tempo libero, nel senso faccio un'operazione al computer, poi attendo mezz'ora che è pronta e in quella mezz'ora faccio lavori di casa. Per cui volevo capire un po' come funzionava e volevo anche sapere, mi sono allontanato un po' dalla radio per cui non so se ne avete parlato, ma se c'è qualche caso concreto di insomma rimborso, insomma una persona assicurata, qualche esempio. Se ha funzionato, insomma. Certo. Se Marcello, la ringrazio. Allora grazie, intanto parto dal suo caso, presidente Leonzi, presidente del Moica. Marcello svolge la sua attività professionale a casa e chiede che però, avendo molto tempo libero, quindi evidentemente in tutto quel tempo che gli rimane si occupa anche della casa, se può essere, come dire, definito anche persona che si occupa della gestione familiare. Ecco, questo voglio dire è la differenza proprio fra la casalinga e l'uomo che, come ha spiegato Fiorenzo, si occupa del lavoro familiare o dell'assistenza familiare magari in determinati periodi della vita. Una cosa è la condizione di casalinga, altra cosa è svolgere in determinati momenti appunto questa attività. Però questo mi suggerisce anche per la donna questa possibilità, perché sempre più le donne che lavorano fuori casa chiedono a noi di poter iscriversi al nostro movimento, proprio perché si sentono amanti della famiglia, dei loro cari, delle persone care e alle quali dedicano tante cure, di essere appunto anche in parte considerate casalinghe. Allora, diciamo, siamo tutte casalinghe, siamo tutte lavoratrici, così come gli uomini, pur lavorando tutti fuori casa o magari purtroppo in questo momento non tutti fuori casa, contribuiscono e condividono con la propria moglie l'impegno, la fatica, la gioia, le soddisfazioni della vita familiare. Perché non si potrebbe pensare, ad esempio, a estendere a tutti quelli che desiderano avere questa copertura, anche se appunto non sono di professione casalinga a tutto tempo, certo, ma a tempo parziale. Insomma, vi auguro, presidente, di trovare presto il tavolo giusto per poter sollevare anche queste sollecitazioni. Intanto però noi andiamo avanti, stamattina ragioniamo su quello che abbiamo in questo momento, cercando anche di convincere le persone che ci ascoltano sull'utilità di una protezione di questo tipo, perché molti ovviamente la guardano con un po' di scetticismo, c'è chi ci scrive, ma insomma, perché la casalinga, che non viene neanche retribuita per il lavoro che fa, questa è un'altra bella battaglia sulla quale le associazioni che rappresentano casalinghe e casalinghi portano avanti da tempo, perché deve pagare un'assicurazione, giustamente, insomma il principio è non percependo del reddito, perché devo sborsare per proteggermi, non dovrebbe pensarci in via obbligatoria qualcun altro. 800 24 00 24, numero verde ancora per le vostre domande. Ci sono anche soggetti che sono protetti e tutelati ma che non devono versare il premio, adesso vi spiegheremo anche chi sono e soprattutto dovremo concretamente capire anche qual è la rendita che viene garantita a chi si trova e chi subisce ovviamente un infortunio nell'ambito delle mura domestiche, si è protetto con questa polizza, come funziona dopo, tra poco. L'assicurazione contro gli infortuni domestici, l'ABC di questo strumento di protezione per chi si occupa solo ed esclusivamente della casa, della gestione familiare. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Il tempo corre, presidente Fiorenzo Bresciani dell'Associazione degli Uomini Casalinghi, le volevo chiedere magari un commento rispetto all'osservazione fatta dall'ascoltatore da Roma, che lui che ci raccontava appunto qual è l'organizzazione della sua giornata, sia dal punto di vista professionale e anche familiare, perché dice lavoro, ma ho molto tempo libero, posso anche occuparmi della famiglia, teoricamente io potrei essere coperto. Ci sono probabilmente molti uomini anche in questa condizione, già iscritti, anche aderenti alla vostra organizzazione? Sì, sicuramente ci sono tantissimi uomini. Io penso che Cioè, però non ho capito bene la domanda, lei mi deve scusare, ma... No, lui praticamente... Lui svolge, oltre che il lavoro casalingo, fa altri lavori. No, lui prima fa un lavoro a casa, diciamo un libero professionista che lavora a casa, un lavoro di natura informatica, chiamiamolo così, che gli permette di avere molto tempo libero e quindi anche di occuparsi della gestione familiare. Lui dice, ho le condizioni per poter essere definito un casalingo? Ma io direi di sì, assolutamente, tutte le persone siamo casalinghe, perché qualsiasi uomo o donna è un lavoro che dobbiamo farlo, perché qualcuno lo deve fare, perciò io direi che anzi è da apprezzare, uno che cerca di riconoscersi su questo aspetto è molto importante. No, però in questo caso, ecco, questo magari è l'aspetto che gli permetterebbe, se vuole, di iscriversi alla vostra associazione, ma forse non di pagare, Presidente Leonzi, la polizza in questo caso, perché non svolge quel lavoro in via esclusiva. La differenza è proprio questa, che questo vale per l'uomo e anche per la donna, che se una persona svolge un lavoro retribuito, è iscritto a una cassa di previdenza, non può iscrivere, non ha i requisiti per iscriversi a questa polizza, quindi la legge prevede questo. È molto chiara su questo. Quindi culturalmente sì. E dal punto di vista della legge no. Allora, Luisa da Milano ci racconta un caso concreto di, come dire, utilizzo della polizza. Luisa, buongiorno, ma non è molto soddisfatta. Lei ha anticipato poco fa quello che volevo dire, ed è appunto come mai, non percependo nessun reddito, noi dobbiamo pagare l'INAIL. È una domanda. A me è capitato di dover essere operata ad entrambe le mani. Sì. Non era un infortunio domestico, erano operazioni indipendenti. Io in quel caso ho dovuto chiedere aiuto ad una signora che veniva a farmi le pulizie di casa, cucinare, lavare i piatti e tutto il resto, e ho pesato ovviamente su mio marito. E quindi, cioè, l'incidente domestico io ritengo, visto che abbiamo in famiglia donne anziane, uomini anziani, succedono guarda caso dopo i 65 anni, perché ci sono le varie cadute, cioè, io la trovo veramente una spesa inutile. Luisa, la ringrazio. Certo, il premio è comunque molto modesto. Presidente Leonzi, perplessità che lei immagino conosce benissimo, quelle che ha sintetizzato la nostra ascoltatrice di Milano. Sì, sì. Io volevo dire appunto che l'esempio che ha portato la signora Luisa è proprio escluso dalla legge, in quanto è una patologia, non è un infortunio. E questa è una polizza per la prevenzione e la copertura in caso di infortunio domestico. Però Luisa giustamente dice il limite dell'età è veramente... Questo ha perfettamente ragione. Anche perché adesso si vive più a lungo, in buona salute, e molto più a lungo ci si occupa della famiglia. Esatto. Infatti una delle modifiche che dovrebbero essere apportate e che vengono richieste, perché guardi, sembrerà un controsenso, ma le persone che devono fare per obbligo il versamento tante volte protestano e non vorrebbero fare. Le persone oltre i 65 anni telefonano a noi e dicono e si vorrebbero farla. E dicono, ma come mai? Perché abbiamo 65 anni, non contiamo più niente, non valiamo proprio. E oltretutto non è che la casalinga 65 anni e smetta di lavorare e si mette in poltrona tutto il giorno a vedere la televisione. Presidente, ci faccia intanto un altro esempio. Abbiamo capito insomma tutto quello che ci sta dicendo. Andiamo un attimo al concreto, perché ci rimangono davvero pochi minuti. Questa assicurazione, appunto, come abbiamo spiegato prima, paga una rendita vitalizia che rimane vittima di un infortunio nello svolgimento dei lavori domestici, ma si deve trattare di un danno grave con un grado di invalidità importante, come per esempio la perdita di un arto. Che a quanto ammonta la rendita riconosciuta, come si calcola? Ma ci sono dei già stabiliti dal 27% al 100%, con gradi diversi che vanno dai 178 euro per il 77 fino ai 1000 e oltre per il 100%. Quindi rendita che è vitalizia, dura... Vitalizia, quindi tutta la vita. E in caso di morte dell'assicurato, questa rendita viene corrisposta agli eredi? Ha una reversibilità? Questo non sono sicura di questo. Adesso lei mi coglie proprio con una domanda, perché da quello che leggevo dal sito INPS credo di no, però non voglio dare delle cose inesatte. che forse non è stato prevista, invece questa sarebbe una cosa molto importante. Io ho trovato invece che in caso di morte dell'assicurato viene corrisposta agli eredi, ma dovremmo trovare appunto le modalità, se questa notizia, perché l'ho trovata solo da una parte, se viene confermata. Certo, quindi rimaniamo con il beneficio del dubbio e lo chiariremo questo aspetto. Sì. Benissimo. Palmiro da Carbonia, buongiorno. Sì, pronto. Palmiro, rapidissimo perché stiamo chiudendo, grazie. Sì, grazie, solo la domanda è questa. Io, mia moglie è a carico, casalinga, 30 anni quasi, è a 50 anni. Io sono invalido civile, volevo sapere se siamo tenuti a pagare. Mm. Abbiamo sempre pagato da quando è entrata in vigore la legge. Però adesso lei è rimasto... No, tra l'altro, Presidente Leonzi, allora magari il caso di Palmiro ci dà modo di spiegare rapidamente anche quali sono i soggetti che non devono versarlo, questo premio, perché è a carico dello Stato. Ed essere comunque assicurati, lei però aveva già richiamato questi tetti di reddito, sì. 4.648,11 per il reddito relativo alla persona che svolge lavoro familiare, 9.296,22 per il reddito familiare. Bisogna sottolineare che tutti e due i requisiti sono necessari, perché spesso ci telefonano e dicono: ma io sono casalinga, non ho 4.648. però ho un marito, ho dei figli in casa, certo, tutto va considerato paredito, quello complessivo. Quindi nel caso di Palmiro va considerato l'ammontare dell'invalidità civile che l'ascoltatore percepisce. Però lui deve considerare, deve andare a un patronato e farsi poi assistere, perché potrebbe anche essere che la sua pensione, che è appunto una pensione di invalidità, mi pare di aver invalidità capito, civile, sì, non venga considerata reddito, e allora in quel caso la signora sarebbe assicurata anche senza fare il versamento. Benissimo, quante altre cose dovremmo raccontare. Io adesso invece mi devo fermare perché abbiamo l'altra nostra rubrica previdenziale che abbiamo attivato già da molte settimane in collaborazione con l'INPS, le parole della previdenza. INPS, per saperne di più. Il concetto che vi spieghiamo oggi è astensione facoltativa. L'indennità per astensione facoltativa, congedo parentale, spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, entro il terzo anno di età del bambino, ed è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Se vengono superati i 6 mesi, l'indennità è subordinata a determinate condizioni economiche. Il reddito individuale del genitore richiedente non deve essere superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, previsto per l'anno nel quale viene presentata la domanda. E anche per oggi Salvadanaio termina qui. Io saluto rapidamente Tina Gallinari Leonzi, presidente della Moica. Ci ritorniamo su questo argomento perché è molto bello e molto importante. Solo un saluto veloce a Fiorenzo Bresciani, Associazione degli Uomini Casalinghi. Presidente, il vostro sito è ASUC per chi volesse informarsi su quello che fate? Sì, il nostro sito è www.asuc.it e lì può trovare qualsiasi cosa che può essere utile. In un'altra trasmissione, Presidente, troverò il modo di valorizzare di più la sua partecipazione, naturalmente, e tutto quello che fate nell'ambito della vostra attività. Grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata.